ad alta voce. Elisabetta Piccolomini legge L'Edera di Grazia Deledda. Undicesima puntata. Ella si svegliò, piena di terrore. Rimase lungo tempo immobile, vinta da uno spavento indicibile. Finalmente poté alzarsi e andò ancora a spiare dietro l'uscio. Le figure dei sei poveri erano sparite. Il vecchio dormiva, con le spalle e la testa abbandonate sui guanciali e le mani sul lenzuolo. Il suo affanno s'era calmato. Egli stava così immobile e quieto che pareva morto. Solo cosa viva in quella camera sepolcrale era la fiammella nel lumino che pareva si fosse nascosta da sé dietro l'uscio. Annessa entrò, s'avvicinò al letto, guardò il vecchio. Un momento, un po' di forza, un po' di coraggio e tutto era finito. Ma la forza e il coraggio le mancarono. Provò un senso di gelo, un tremito convulso e le sue dita si contrassero. No, non poteva, non poteva. Ritornò in cucina, aprì la porta e uscì nel cortile. Allora si accorse con meraviglia che l'uragano era cessato. La luna saliva limpida sul cielo azzurro chiaro come un cristallo. I vetri delle finestre, il lastrico del cortile, le tegole della tettoia avevano un riflesso d'argento e nel silenzio profondo non si sentiva più neppure il canto dei grilli né quello dell'usignolo che ogni notte veniva nel bosco in fondo all'orto. La furia dell'uragano aveva spento anche la loro voce e pareva che gli abitanti del villaggio, nero ed umido sotto la luna, fossero tutti scomparsi come i loro leggendari vicini del paese distrutto. Ma questo silenzio, questa morte di tutte le cose, invece di calmare Annessa, la eccitarono ancora. Nessuno poteva spiarla. Nessuno poteva vedere ciò che ella faceva. Il mondo esterno, coi suoi ammonimenti e i suoi pericoli, non esisteva più per lei, e nel suo mondo interno tutto era di nuovo tenebre. L'ossessione la riprese, la ripiombò in uno stato di semi-incoscienza febbrile. Ella però lottò ancora contro il cieco impulso che la guidava. Rientrò nella camera, uscì di nuovo nel cortile, andava e veniva come una spola tessendo una trama spaventevole. A lungo l'istinto della conservazione fu più forte della sua mania. Infine parve salvarla. Chiuse la porta, spense la candela, sedette sull'orlo del canapè e si piegò per levarsi le scarpe, ma il vecchio sospirò e s'agitò ed ella rimase un istante curva ascoltando. Poi si sollevò lentamente. Era meglio non spogliarsi. Gli accessi d'asma che da qualche notte tormentavano il vecchio potevano da un momento all'altro ricominciare. Ella si corica dunque e si tira la coperta fin sul viso. Ella si è coricata vestita non per essere pronta ad aiutare il vecchio, ma per aiutare la morte se l'accesso ritorna. Un piccolo sforzo, una mano sulla bocca del malato, il calmante rovesciato sul tavolino e tutto sarà finito. Il suo cuore batteva convulso. Ella cercava di respingere ancora la tentazione diabolica e tuttavia aspettava e sentiva che la sua attesa era simile all'attesa del sicario dietro le macchie. Rivedeva la figura del vecchio come le era apparsa la notte prima durante l'accesso. Egli sembrava agonizzante, stralunava gli occhi, apriva la bocca avida d'aria. Basta forse che io non lo aiuti a sollevarsi. Basta che io non gli dia il calmante. Egli deve morire stanotte. Altrimenti muore l'altro. Bisogna che Paolo domani sappia che il vecchio è morto. È tempo. È tempo. Il suo desiderio era così forte che le pareva impossibile non dovesse avverarsi. Poiché il vecchio doveva morire subito. Fra 20, fra 10, fra 2 giorni sarebbe stato troppo tardi. La notizia della sua morte doveva raggiungere Paolo al più presto possibile, o l'uno o l'altro. Le pareva che il destino della disgraziata famiglia stesse in mani sue. Nel suo delirio arrivava a dirsi che avrebbe commesso un più grave delitto di quello meditato se non riusciva a impedire la morte di Paolo. La rovina ultima dei suoi benefattori, o l'uno o l'altro, o l'uno o gli altri. Di tratto in tratto risuonava nella straducola qualche passo di cavallo stanco. Poi il silenzio regnava più intenso. L'ora passava. La stanchezza, la febbre, l'insonnia ricominciarono a far delirare Annessa. Le figure dei 6 poveri ripresero il loro posto intorno alla tavola. Gli occhi, bianchi e gravi del cieco, fissavano il lettuccio del vecchio asmatico. La testa enorme di rosa cominciò a oscillare sull'esile collo della bimba dal quale pareva volesse staccarsi. Donna Rachele s'avanzava con un vassoio in mano e rideva come da anni e anni la febbricitante non l'aveva veduta più ridere. E questa Letizia insolita, da vecchia improvvisamente impazzita, esasperava Annessa. Nel suo sogno febbrile, ella guardava il vecchio e pensava: con tutta questa gente, anche se l'accesso ritorna, come posso fare io? Tutti mi guardano, anche Niculino vede. Non se ne vanno dunque. Non se ne andavano, perché infuriava ancora il temporale. I tuoni scuotevano tutta la casa. Un filo d'acqua penetrava dal soffitto e cadeva sulle spalle di Annessa, dandole un raccapriccio nervoso. Ed ella aspettava sempre. E nel sogno delirante la sua attesa diventava un'attesa misteriosa, piena di terrore ed angoscia. Chi doveva arrivare? Che cosa doveva succedere? Ella lo ricordava benissimo. Sapeva che doveva arrivare la morte e che ella doveva aiutarla come la serva aiuta la padrona. Ma oltre a questo, ella aspettava altri fantasmi più terribili ancora e indovinava che altre cose più orrende dovevano accadere. È un dolore che superava tutti i dolori. Più intenso della sua pietà per la famiglia che l'aveva beneficata e della paura che Paolo morisse di mala morte, le lacerava l'anima sommersa nella tenebra del male. Era un dolore senza nome, l'angoscia del naufrago che scende nell'abisso molle e amaro del mare e ricorda i dolori della vita, belli e piacevoli in paragone al mostruoso dolore della morte. Un altro passo di cavallo nella straducola. Ella si scosse dal suo assopimento, si levò la coperta dal viso e ascoltò. Signore, signore, era mai possibile? Il passo risuonava forte e tranquillo, s'avvicinava, sembrava il passo del cavallo di Paolo. Ella si gettò dal canapè trascinandosi dietro la coperta e s'avventò contro l'uscio come una pazza, ma il cavallo passò oltre. Il vecchio si svegliò di soprassalto. Vide la coperta buttata per terra in mezzo alla camera, vide Annessa vestita e si spaventò. Annessa! Annessa! Anna, che c'è? Quel grido la richiamò alla realtà. Ella ricordò subito ogni cosa e sentì il bisogno di scusarsi col vecchio. Credevo fosse Don Paolo. disse con voce rauca, sonnata. Nella speranza che tornassero mi sono spogliata. Volete qualcosa? S'avvicinò al lettuccio e fu ripresa dalla tentazione, dall'ansia, dal terrore. Ma le pareva che il vecchio, nella penombra, indovinasse i pensieri di lei e vegliasse. «Dammi un po' d'acqua». Ella prese il bicchiere che stava sopra una sedia e glielo porse. La sua mano tremava. «Sognavo. Mi pareva mi avessero portato via la medaglia. Eccola qui», disse zio Zua con la sua voce tremula e ansante, cercando e traendo fuori dal petto la medaglia. «Proprio ora vi portano via anche quella porcheria», rispose Annessa con dispetto. «Proprio. Ora vengono i grassaturi per portarvela via». Il vecchio alzò la testa. «Oh, bada a quel che dici, ragazza. Se non portano via la mia medaglia, porteranno via gli stracci dei tuoi padroni. Io non ho padroni. Dormite, che farete bene. Neppure la notte lasciate in pace la gente». «Non hai padroni? È vero, domani sarete tutti servi», riprese il vecchio sempre più irritato. «Servi, sì, servi. Anche il tuo bel giramondo, se vorrà vivere, andrà col badile e la zappa sulla spalla». Non era la prima né la millesima volta che egli le rinfacciava la miseria dei suoi padroni. Entrambi sapevano dove è meglio colpirsi a vicenda e non esitavano a farlo. Istintivamente ella si scostò dal letto, ripresa da un tremito convulso, raccattò la coperta, sedette sul canapè, sbadigliò. Il vecchio continuava a borbottare. «Non vi lascio in pace neppure la notte, malanno che vi colga. Anche quello mi rinfacciate. Ma chi ti cercava, vipera? Sei tu che m'hai svegliato e faresti meglio spogliarti e andare a letto. Il tuo giramondo non tornerà, sta pur sicura, non tornerà. È inutile che lo aspetti, sai, bella, egli a quest'ora non pensa a te». Ella cessò di sbadigliare e di tremare. «Cosa? Cosa dite?» «Nulla, dicevo che la medaglia possono portarmela via. Anche la medaglia, ma gli occhi no, le orecchie no. Continuate», ella disse minacciosa. «Niente, ho finito, va a letto, ti dico, e non prendertela con me se il giramondo non torna. Ti ho detto che non pensa a te stanotte». Era troppo. Un velo coprì gli occhi di Annessa. Incosciente, ella si alzò trascinandosi dietro la coperta che di nuovo abbandonò in mezzo alla camera. Si precipitò contro il vecchio, gli si gettò addosso, gli mise le mani intorno al collo. Una specie di rantolo le usciva dalla bocca spalancata. Tutto era tenebre e fragore intorno a lei. Ma il vecchio ebbe la forza di strapparsi dal collo le mani che volevano soffocarlo e continuò a gridare «Aiuto! Aiuto!». Ella non tentò di fargli oltre del male, ma gli disse a voce alta «Se non state zitto, vi strangolo davvero. Provate un po' a gridare ancora, provate!». Egli ebbe paura e non osò più gridare, ma si portò le mani al collo. Con un istintivo moto di difesa e chinò la testa, curvò le spalle, tremò tutto, vinto da un terrore infantile. La sua barba sfiorava la coperta sotto la quale le sue vecchie membra si agitavano tutte. La disgraziata non vedeva più nulla, solo capiva che il vecchio aveva paura di lei ed anche lei adesso aveva paura di lui. «Domani mi denunzierà», pensava, fissandolo con gli occhi non più umani. «Sono perduta, mi denunzierà e si farà portare via di qui e tutto sarà finito. Chi io sia perduta non importa, ma gli altri no. Gli altri no». E un martello inesorabile picchiava e picchiava alle sue tempie come ad una porta che bisognava sfondare. «O lui o gli altri, o lui o gli altri». Ma ella non poteva, non poteva. Le sue mani si rifiutavano all'opera orrenda. Tentò di placare il vecchio, gli si piegò sopra, gli parlò con frasi sconnesse, ma la sua voce era rauca, minacciosa e pareva venire di lontano, da un mondo tenebroso, popolato di esseri mostruosi, di demoni, di bestie parlanti. Forse il vecchio, ripiegato su se stesso, come curvo sul confine della vita e già partecipi ai misteri dell'eternità, sentiva che quella voce non era più una voce umana. Forse non la sentiva neppure e non dava ascolto che alla voce del suo terrore. Per quanto Annessa parlasse, egli non si muoveva, con le mani sempre intorno al collo e il viso sul lenzuolo. Ella si stancò, si sollevò e andò a raccattare nuovamente la coperta. Un urlo risuonò per la camera. Aiuto! Aiuto! Allora ella perdette l'ultimo barlume di ragione. D'un balzo gli fu sopra, gli gettò la coperta sul capo, lo premette con tutto il peso della sua persona. Un gemito sordo, un agitarsi disperato di membra sotto la coperta, poi lentamente il gemito s'affievolì. Parve venire da una lontananza buia, dalla profondità di un abisso, e sotto il suo petto convulso, tra le sue braccia contratte, Annessa non sentì che qualche sussulto, un lieve movimento, più nulla. Quanto tempo era passato? A lei parvero fossero trascorsi appena 2 o 3 minuti e si meravigliò della poca resistenza della vittima. Nel dubbio che il vecchio fingesse ancora, gli premette il viso con le mani, gli spinse la testa contro il cuscino. Altri minuti passarono. Ella riacquistava gradatamente un po' di coscienza, si accorgeva di quello che faceva e aveva paura di venir sorpresa. Qualcuno poteva aver sentito i gridi della vittima. Da un momento all'altro zio Cosimo o don Simone o donna Rachele potevano apparire sull'uscio e domandarle che cosa accadeva. Ella ascoltava e ogni tanto volgeva il viso spaurito guardando verso l'uscio. Ma il silenzio della morte regnava ormai nella camera. Gli oggetti restavano immobili nella penombra e solo il lumicino continuava ad ardere ed a spiare quieto nel suo angolo, come un testimone che vuol vedere senza essere veduto. D'un tratto ella provò un terrore misterioso. Le parve che le cose intorno, mascherate di penombra, avessero paura di lei. Ed era invece lei che aveva paura di loro. Se un mobile avesse in quel momento scricchiolato, ella sarebbe fuggita, urlando. Finalmente si mosse. Stette alcuni momenti in piedi davanti alla vittima, senza osare di scoprirla. Poi sentì un rumore che le sembrò venisse dalle stanze superiori e corse e chiuse a chiave l'uscio, ma subito lo riaprì e uscì nell'andito. Che fare? Per un momento pensò che doveva gridare, chiedere aiuto, dire che il vecchio moriva. Salì il primo rampante della scala fino all'uscio di donna Rachele, ma mentre stava per picchiare ricordò di aver lasciato la coperta sopra la vittima e di nuovo le ritornò in mente il dubbio che il vecchio non fosse morto. Ridiscese, ma non poté levare subito la coperta. Ella aveva paura di vedere il viso della vittima. Qualche cosa però bisognava fare: chiamare, fingere, dire che il vecchio era morto in seguito ad un accesso. Dio mio, mormorò, lisciandosi 2 volte i capelli con ambe le mani, e andò a sedersi sul canapè. Il cuore non le batteva più, ma si sentiva stanca, così che le pareva di non poter più alzarsi e camminare, e avrebbe voluto coricarsi e dormire, poiché tutto era finito e oramai non le restava che dormire, dormire profondamente. Dirò che è morto mentre dormivo. Perché devo svegliarle? C'è tempo, c'è tempo. Piegò la testa, chiuse gli occhi e subito vide il viso del vecchio girare vertiginosamente intorno a lei, ma subito un passo risuonò nel silenzio della notte chiara, sui ciottoli umidi della straducola. Ella provò un nuovo terrore, poiché le parve di riconoscere il passo di Paolo. Il passo si avvicinava. Ella balzò in piedi, prese il lume, si curvò sulla lampadina per riaccenderlo e stette ad ascoltare con crescente terrore. Paolo non poteva essere. In tutti i modi egli sarebbe ritornato a cavallo, eppure quel passo, un po' indolente, sembrava il suo. La fiammella della lampadina s'allungò, si indugiò intorno al lucignolo del lume, poi si rimpicciolì e si fece ancor più quieta e timida. E la nuova luce si sparse, giallognola e triste, cercò ogni angolo della camera lugubre, illuminò il mucchio immobile che sorgeva sul letto. Anche la mente di Annessa parve rischiararsi. Ella capì ciò che aveva fatto ed ebbe paura di se stessa. «Ho ucciso un uomo? Io, Annessa, ho ucciso. Dio mio, che ho fatto?» A misura che il passo s'avvicinava, ella sentiva crescere la sua paura. Paura che il vecchio, non ancora morto, dovesse muoversi ed emergere dalla coperta giallastra come un mucchio di terra. Paura del passo che s'avvicinava, paura di muoversi, paura di star lì ferma vicino alla fiammella della lampadina che pareva la guardasse come un occhio vivo. Ed ecco, il passo cessò. Qualcuno batté alla porta. Neppure per un istante ella dubitò. Chi picchiava era Paolo. Elisabetta Piccolomini ha letto L'Edera di Grazia Deledda, a cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.